buonasera a tutti, la Furia a sostegno della Radio Onda Rossa. Applauso per la radio. Vai, regà. Un altro pugno nello stomaco per ricordarmi che non sto dormendo, ma sono vivo e questa è la mia vita. E non ho lacrime né giustificazioni per chi vuole prenderla. La mia generazione grida vendetta, pago il prezzo di chi ha bacchettato col futuro dei suoi figli. Ali mossate prima di volare ed un domani che non ha nemmeno l'ombra d'aria sui polmoni. Fregare disoccupati, illusi e traditi, questa Italia l'hai da chiusa nei palazzi del potere. Viva il presente, se non ho un futuro, avessi più coraggio avrei del piombo a dare forza alla ragione. Nel posto dove i sogni muoiono, ci nasco, ci vivo, ci muoio ancora prima di morire. Se la mia vita è già scritta, io la riscrivo a forza su una base di chitarre dagli a massimo volume. Benvenuti nel posto dove i sogni muoiono. Benvenuti nel posto dove i sogni muoiono. Muoiono. Oltre i pugni nello stomaco aggiungi tutto quello che ti rubano. Cuore fegato, sentirsi libero se piedi nudi sopra i vetri. Ti credi comodo? Come se bastasse urlare dentro un microfono. Lazzi addosso la mattina mentre va al lavoro. I sogni infranti sugli specchi in cerca di un futuro. Trasformo il canto in rabbia, la rabbia è lotta. Mastico polvere, sopra le stelle e l'asfalto. Ti hanno tolto di certezza senza darti nulla in cambio. Dentro un fuoco di parole con un'anima in amianto. Tanto! Il consiglio che ti danno è sempre quello d'arrangiarti. Ed ogni volta tocca rialzarsi. Se in questo posto i sogni muoiono, sarà il momento di svegliarsi. Benvenuti nel posto dove i sogni muoiono. Benvenuti nel posto dove i sogni muoiono. Per me, peggio per voi, peggio per tutti. Dovrei ringraziarvi per aver scossato il mio futuro. Ed ogni lacrima versata, ed ogni goccia di sudore, ha una rima partorita con dolore e puro ancora amore. Per chi rifiuta tutti i giorni di vedere rose e fiori, dove il marcio è ricoperto da un alone di finzione, dove la merda è profumata e tutto brilla tanto da accecare anche il cervello più allenato. Anche il cervello più allenato. Anche il cervello più allenato. La Furia, grazie regà. C'è un rimbombo di Cristo sul palco che è il basso perso, non lo so, però si sente proprio tutto il tempo. Fammi un applauso a Rambo, il chitarrista nostro, che c'ha 38 e mezzo di febbre, regà, siamo andati a prelevà. Dopo lo riportiamo a casa morto, facciamo un po' di caciara pure per lui. All'ultimo giorno della sua giovane vita. Sta... sorrisi, sogni di plastica, mentre ne voglio imposte con la frusta della comunicazione. Siamo così detto dalla voglia di avere un altro oggetto ancora un altro per esistere e non scomparire. La repressione silenziosa, perché hanno capito che mai un telecomando, un moschetto puntato, non ha romanzo di Orwell, è molto peggio verso di essere libero. Muori! Mi sono visto tra le rate di una macchina sportiva, scomitando tra la merda per raggiungere un benessere dettato da chi vuole poi rivenderla a una massa di consumatori ignari. Come agnelli sul patibolo! Consuma! Tutto quello che vuoi, tutto quel che non hai. Consuma! Una città vetrina in cui specchiare il senso di una vita, apprezza cose inutili finché non è finita. Soffocato da bisogni che ti posto, scegli pure il tuo sogno e poi dagli un costo. Scappalli pieni nei supermercati, occhi spenti, cuori freddi, cosa siete diventati? Siete tutti benvenuti, basta che consumiate. Socialità, pagamento, divertimento a rate. Liberi di scegliere, ma che a colori? Liberi di scegliere da chi farvi sfruttare. Io tengo vivo il senso di sorrisi e lacrime. Gira a volto coperto dentro l'era dell'immagine. Consuma! Tutto quello che vuoi, tutto quel che non hai. Consuma! Tutto quello che hai prima o poi possiede. Tutto quello che hai prima o poi ti possiede. Ti possiede. Le cose belle che ho non sono cose, desideri che non puoi comprare in banconote. Se possedere è uguale a esistere, tu vivi per qualcosa che domani non sarà che polvere. Polvere! Non sarà che polvere! Polvere! Grazie. Oh, volevo fare un saluto in particolare a tutto il nostro collettivo, il comitato di lotta Quadraro presente oggi in forze, e al buon Confi che taglia le corde. Prossima si chiama La Furia. Ah, sì sì sì. Travisato dalla vostra non cultura, pace amore del cazzo, ora imparato. Nasci puro come un pezzo di diamante, non si nasce con la furia dentro, l'odio cresce poco a poco. Figlio dell'ingiustizia in ogni dove, a casa, a scuola, sul lavoro, in ogni centro dove c'è potere. L'odio che mastico da quando l'ho capito non è quello per l'appello o per il credo. La mia rabbia va di pari passo al prendere coscienza di non essere padrone di me stesso in questo mondo telecomandato, perché la tua voglia di un mondo migliore scatenare l'odio per chi lo vuole minare. E c'è anche amore dentro una bottiglia piena di benzina, che nelle parole vuote di un politico carica il suo di d'oro. La furia chiede giustizia per tutti quelli che non hanno il privilegio di parlare d'amore. La furia grida vendetta e chiede dietro un mondo dove non ci sia bisogno di se stessa. La furia chiede giustizia per tutti quelli che non hanno il privilegio di parlare d'amore. La furia grida vendetta e chiede dietro un mondo dove non ci sia bisogno di se stessa. Emozioni puntellate di spine, vive dentro a rovi di more. Forse è per questo che l'ar d'amore è il terrore dato dal telegiornale, che ti dice quando piangere per chi votare. Quale idea per un mondo migliore? Tu metti un fiore, io metto piombo. È forse il veleno a farmi stare ancora al mondo, col sangue agli occhi e la furia dentro. Non può rinchiudere la vita in poesie, litanie di luoghi comuni. Non cambierà mai nulla finché l'uomo sfrutterà l'uomo, finché l'accumularsi di ricchezza spegnerà il dominio. Vuoi ancora domandare le ragioni del mio odio? Arcor come attitudine, la morte di ogni giorno a cui fare l'abitudine. Lo sfruttamento, l'alienazione, l'ansia, la solitudine. La furia chiede giustizia per tutti quelli che non hanno il privilegio di parlare d'amore. La furia grida vendetta e chiede indietro un mondo dove non ci sia bisogno di se stessa. La furia chiede giustizia per tutti quelli che non hanno il privilegio di parlare d'amore. La furia grida vendetta e chiede indietro un mondo dove non ci sia bisogno di se stessa. Giustizia! La furia grida vendetta! La furia chiede giustizia! La furia grida vendetta! La furia chiede giustizia per tutti quelli che non hanno il privilegio di parlare d'amore! La furia grida vendetta! Chiedi dentro un mondo dove non ci sia bisogno di se stessa! Oh. Grazie, raga. Grazie. Oh. Il prossimo pezzo si chiama Maledetto Lavoro, Maledetto Denaro. Parla della storia di un lavoro che è quello che molti di noi hanno fatto, ovvero sia il montaggio, smontaggio palchi dei concerti. È uno dei settori dove la contraddizione tra chi si arricchisce e chi lavora e viene sfruttato è più lampante. Volevamo dedicarlo come sempre a Matteo, un nostro amico che ci ha lasciato le penne facendo quel lavoro. Di ieri o l'altro ieri la notizia che ci sono stati dei rinvii a giudizio per l'incidente che ha portato alla sua morte. Noi non abbiamo fiducia nei tribunali borghesi, come è successo tante volte, come ad esempio con la ThyssenKrupp. Sicuramente nonostante i rinvii a giudizio, che questa volta sono andati comunque a pescare fra i vertici delle varie cooperative e delle varie società che hanno gestito quell'evento, sicuramente finirà appunto con assoluzioni, con prescrizioni. Quindi quello che noi ci auspichiamo è che attraverso l'auto-organizzazione tutti quanti riusciamo a costruire una società diversa e un modo diverso appunto di intendere la nostra vita quotidiana e anche l'attività lavorativa. Sudore sopra San Pietrini, nascosti dai tappeti rossi, grandi vecchi dei padroni, fabbriche dell'intrattenimento, vetrine del superfluo, costruite sul lavoro nero e sfruttamento. Dietro le quinte ogni concerto c'è chi scarica bilici per tutto il giorno, chi resta appeso a 20 metri sopra il mondo, chi ha le mani spaccate su un ferro ghiacciato d'inverno e rovente d'estate. Correre per ottimizzare i tempi, risparmiare sulla sicurezza e non sull'auto compensi. Sedicenti artisti, caschi gialli, guanti neri, tutta la notte come ladri senza essere visti. Fave il Cristi su crocifisso e liar in nome dello show business. E non esiste che per questi quattro spicci tocca pure morisce. Maledetto denaro, maledetto lavoro, il vostro lurido spettacolo non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro. maledetto denaro. I soldi in cambio della vita a un prezzo troppo caro. Fuga da un altro Cristo da un'americana. Arruolato a forza al fronte di una guerra muta. Gelato dietro riflettori accesi. Dentro lo spazio dello show vanno in onda tutti i giorni. Dagli impresariato. Questo denaro è maledetto. Morire per un piatto, per un tetto. Per stare a galla in questo mondo. Il lavoro è il suo strumento. Se vuoi mangiare sgoppa rischia il culo tutti i giorni. Questo è il suo ricatto. È la fabbrica dell'intrattenimento. Il tuo cantante preferito non è altro che un prodotto. Progettarlo e pacchettarlo e dargli un passo. Se della caro prezzo realizzare un buon profitto. Questo denaro è maledetto. Morire per due stigi a nero. Per stare a galla in questo mondo. Il lavoro è il suo strumento. Se vuoi mangiare sgoppa rischia il culo tutti i giorni. Questo è il suo ricatto. Maledetto denaro. Maledetto lavoro. Nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro. I soldi in cambio della vita un prezzo troppo caro. Maledetto denaro, maledetto lavoro. Nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro. I soldi in cambio della vita un prezzo troppo caro. A Matteo, a Francesco, a Khaled, carne da macello nell'industria dell'intrattenimento, a tutti i facchini, scaf, tecnici e maestranze dello spettacolo, camerieri di catering, sfruttati in nome del profitto di produzioni, di superstar di plastica, indegnamente chiamati artisti, convention di banche multinazionali, grassi pranzi per maiali in giacca e cravatta, convegni di partiti e sindacati, senza sicurezza, senza diritti, senza un tetto orario, spesso senza contratto, a volte senza la certezza di tornare a casa. Maledetto lavoro, maledetti soldi. Ah! Maledetto denaro, maledetto lavoro, maledetto denaro, maledetto lavoro, maledetto denaro, maledetto lavoro, maledetto denaro, maledetto lavoro, maledetto denaro. La prossima è un po' più allegra, è una cover di un gruppo romano che non c'ha bisogno di presentazioni, Colle del Fomento. Non importa che sia rap o punk, hardcore è l'attitudine, hardcore è la capoccia. Dai, maestro. La ciotta si sveste, raga. Fammi l'incoraggiamento a la ciotta personale, dai. Strafa che ti rappa e la tua testa flippa. Adesso canta tu, vediamo chi è che strippa. Faccio rap, solo rap, tu ci ridi sopra. Ci giochi ma con rap non ci si gioca. Sai che flippa il corso, l'hardcore per questo. Se non ti piace è una questione di testa e non solo di gusto, quindi vai, non ti do quello che vuoi. Zero rei, zero gambe sopra il colle. Sono fatto big boy. Niente sono strane, troppe cose a puttare. Trappa gente che cambia due settimane. Io resto sordo, cieco, muto. Pure se mi prendi a volte in testa resto qui seduto e rido. Non ho motivo per attrarmi, per confrontarmi. Se vuoi dammene uno tema non cercare di fregarmi. Perché sto cercando di lasciarti qualche cosa che rimane dentro la tua tazza se non lo cancelli. Perché flippo solo hardcore. Non regalo niente perché flippo solo hardcore. Perché flippo solo hardcore. Non regalo niente perché flippo solo hardcore. Perché flippo solo hardcore. Non regalo niente perché flippo solo hardcore. Perché flippo solo hardcore. Non regalo niente perché flippo solo hardcore. Non regalo niente, solo hardcore. Piaci 100.000 volte. Pure se è pesante deve essere forte. Sempre solo stecolare con una sigaretta accesa. Carta e penna nella stanza chiusa, non c'è scudo, solo hardcore. Guardami negli occhi, cerco un modo per sta bene. Giorni amari troppi. Chi non ha niente dire meglio che non dice niente. Quel che sento mi fa piare male, sempre più pesante. Fuck romano, spero qualche cosa gli rimane. Se parli parli in faccia, se non sei infame. Non vali di cosa cazzo, troppo in giro. Non puoi comprarmi perché scrivo, quindi sono vivo. In testa vedo scioccherati, tu non puoi vedere. Aspetto il giorno perché no, ma non puoi capire e non mi puoi seguire. È una questione se di se c'è stata la facciata, la casa non c'è stata. testa perché Pippo solo hardcore. Non regalo niente perché Pippo solo hardcore. Perché Pippo solo hardcore. Non regalo niente perché Pippo solo hardcore. Perché Pippo solo hardcore. Non regalo niente perché Pippo solo hardcore. Perché Pippo solo hardcore. Non regalo niente perché Pippo solo hardcore. Rap hardcore, pack romano. Questo è rap hardcore, pack romano. Non lo puoi fermare. Questo è rap hardcore, pack romano. Non lo puoi fermare. Questo è rap hardcore, pack romano. Non lo puoi fermare. Questo è rap hardcore, pack romano. Non lo puoi fermare. Questo è rap hardcore, pack romano. Non lo puoi fermare. Questo è rap hardcore, pack romano. Non lo puoi fermare. Questo è rap hardcore, pack romano. Non lo puoi fermare. Questo è rap hardcore, pack romano. Non lo puoi fermare. Questo è rap hardcore, pack romano. Non lo puoi fermare. Questo è rap hardcore, pack romano. Non lo puoi fermare. Questo è rap hardcore, pack romano. Non lo puoi fermare. Questo è rap hardcore, pack romano. Non lo puoi fermare. Rap hardcore, pack romano. Oh, bastone. Il prossimo pezzo a rappresentanza degli XSB, ex Snia Boys, Resident. Bastone. Lo ricordi, ostacco? Oh, oh, sì, sì, sì. Ci stiamo, ci stiamo. Sì. Andiamo all'uomo a compiere miracoli senza profeti, superstizioni, oroscopi, santoni col Mercedes, monitori al soldo di una qualunque fede, vicino chiese per illuminare le coscienze, fantogne new age o vecchie credenze, consolazioni illusorie al fronte di problemi reali, liberare la mente, sentire il fuoco sotto la scienza da proprie oggettive. Oh, non si tratta di crederci o meno, ci sono stelle e pianeti ma nessun dio se guardo nel cielo. Vola più su tra le nuvole, il cielo più alto tra le stelle, più alto di ogni limite. Adesso sa che non c'è Dio senza uomo. Vola dove la paura dell'ignoto muore. Più su tra le nuvole, il cielo più alto tra le stelle, più alto di ogni limite. Adesso sa che non c'è Dio senza uomo. Vola dove la paura dell'ignoto muore. Yuri Gagarin. Sì, sì. Sei nato già macchiato da un peccato mai commesso. Il primo passo verso un ricatto congegnato, controllato socialmente col baratto del perdono. Costruiscono la colpa e danno una soluzione dono. Vecchio avanti, marcato col battesimo, indottrinato a scuola, soldato in un esercito di rassegnati in terra. Ci aspettano vite migliori dopo vite nelle quali sempre li calpestano. Oggi alleno mente e corpo e costruisco i miei comandamenti. Un senso a Dio padrone di se stesso. Oggi non prego e non aspetto che il Dio fantaccio degli umani su dal cielo ascolti il mio lamento. Fulcini leali dopo restami vicino. Oh. Vorrei volare in mezzo al fuoco, questa morte clandestino. Non darmi retta, no. Si brucia a fenda, gallo canta ed ogni alba qui io me la tengo stretta. Miserere! Brido alla vita e danzo con la luna. Chi mi spaventa passeri non sa volare. Per fortuna che sogno il più profondo, questa notte bruna. Non voglio più certezze, ne staccio una ad una. Mi basta il sangue nelle vene, qualche ruga più sul viso. Il biglietto! La destinazione non è paradiso. Tanto su razzo tutto chiaro all'improvviso. Oh oh oh, tutto quello che non è ancora ucciso. Ma più su a tre, tu vuole sciaro, mirato tra le stelle, mirato tra il limite. Adesso sa che non c'è Dio senza uomo. Vola dove la paura dell'ignoto muore. Più su tra le nuvole, il cielo più alto tra le stelle, più alto tra il limite. Adesso sa che non c'è Dio senza uomo. Vola dove la paura dell'ignoto muore. Yuri Gagarin. Un applauso del bastone, regà. Sì, bella regà. Senza prove è venuta, è entrata. E un po' di fiato è rimasto, me l'ha regalato. Oh, la furia. Grazie. Sono Dolamo. La prossima si chiama Assalto al cielo. E direi che oggi stiamo in tema. Un applauso in ottavo a tutto il corteo di oggi. Pochi ma buoni. Rivoluzione, sparare agli orologi, bloccare gli ingranaggi della produzione, trovare il proprio passo, un ritmo adatto non imposto dal bisogno di profitto, prendersi il tempo, reinventarsi il tempo, c'è della terra sotto quel cemento, c'è una spiaggia sotto quell'asfalto, c'è fuoco caldo dentro un cuore spento, voglio più tempo libero d'avanzo, farò saltare in aria, lancette, pause, pranzo, assalterò il cielo di domani, chiuso dentro i sogni dei tempisti e giochi dei bambini, balenando a speranza nel cuore miseri, consumando d'angoscia e ricchi chiamano limiti fin dove arrivano, chi si spinge oltre un provocatore, tempo mossa dal furore, la furia serve il seno, chiamalo rumore, sparare agli orologi, assalto al cielo, prendere indietro il tempo, assalto al cielo, guardarsi dentro, assalto al cielo, chiamano tempo, chi segue l'impossibile, sparare agli orologi, assalto al cielo, prendere indietro il tempo, assalto al cielo, guardarsi dentro, assalto al cielo. Ah! Il mio denaro mozza ore come te, stessi in corsa del mio tempo avido, come fosse suo, la mia vita accelera su un percorso già prestabilito, da cui non puoi scappare, e se terai hanno pronti manganelli, centri di genere mentale e lucchetti ben oliati, a guardia di un esistere artificiale dove il profitto è sommo giudice tra bene e male, e allora voglio inseguire un concetto di normale, di possibile, che non sa galleggiare nella corrente della consuetudine, nascosto tra le convenzioni per non essere additabile, immaginando l'impossibile, muovendo passi verso il concreto, un'utopia raggiungibile, il più potente potere che abbiamo, vedere dove non c'è ancora nulla, un nuovo potenziale. Sparare agli orologi, assalto al cielo, prendere indietro il tempo, assalto al cielo, guardarsi dentro, assalto al cielo, chiamano teppa, chi segue l'impossibile, sparare agli orologi, assalto al cielo, prendere indietro il tempo, assalto al cielo, guardarsi dentro, assalto al cielo, sparano addosso a chi lo rende raggiungibile. Oh, Nicola non c'è, quindi famo ringraziamenti, grazie regà Radio Onda Rossa, a Fefo, al Fantasma, a Massello, tutta organizzazione, al fonico, tutti, tutta gente che si è sbattuta per la giusta causa, senza via nemmeno una lira, e questo c'è da sottolinearlo. Questa era la furia, dai raga. Gli orologi, assalto al cielo, prendere indietro il tempo, assalto al cielo, guardarsi dentro, assalto al cielo, chiamano teppa, chi segue l'impossibile, sparare agli orologi, assalto al cielo, prendere indietro il tempo, assalto al cielo, guardarsi dentro, assalto al cielo, sparano addosso a chi lo rende raggiungibile. Oh, grazie. Le ultime due e se andiamo. La prossima è sempre una cover del gruppo semi sconosciuto della Manziana Hardcore di Charlie. Si chiama La tua maschera. bocca! Pace, amore, rassegnazione! Pace, amore, rassegnazione! Collabori con il potere, perché il potere è ciò che vuoi! Collabori con il potere, perché il potere è ciò che vuoi! È il tuo standardo, è la tua maschera! Hai trasformato quelle parole nella cornice di un'immagine che ti sei confezionato! Collabori con il potere, perché il potere è ciò che vuoi! Collabori con il potere, perché il potere è ciò che vuoi! Oh, grazie! Maurizietto De Vegliano, quando sai? L'ultimo pezzo. Dai una mano Maurizio agli ultimi. Maurizio c'ha freddo. Canzone d'amore. Aspetta, sì. Oh. Pure la tua musica di plastica pensata ad arte per un pubblico che vuole evadere. Qui sono tempi cupi, adesso non c'ho voglia di sedativi musicali per gente bene. Questa non è una canzone d'amore, nemmeno d'odio, se è vero che oggi l'odio vende bene. Questa attitudine è forgiata da passione, sangue, sudore, lacrime, sopravvenire. Ho ancora un cuore, se tutta questa plastica del tuo ancora voglia di dare tutto e non avere il cambio, ancora ho viso per queste maschere, ancora la musica che sta dalla mia parte. Ho ancora un cuore, se tutta questa plastica del tuo ancora voglia di dare tutto e non avere il cambio, ancora ho viso per queste maschere, ancora la mia musica che sta dalla mia parte. Oh, con un cuore che si è masticato, pieno di tagli vomitato, ancora vivo, butta sangue e non si arrende. Sta motore vale ore, non si vede. Ho ancora un peso, il privilegio di guardarmi in faccia. Porto solo sempre quello che piace o non piaccia. Voglio ancora dare tutto sopra e sotto un palco. Chi mi sente, chi comprende, chi c'ho ancora accanto. La furia ancora, fino a restare senza fiato. Mentre urla lontano, vinile rigato. Ho ancora un cuore, sa tutta questa plastica che torna ancora voglia di dare tutto e non avere il cambio, ancora un viso tra queste maschere, ho ancora la mia musica che sta dalla mia parte. Ho ancora un cuore, sa tutta questa plastica che torna ancora voglia di dare tutto e non avere il cambio, ancora un viso tra queste maschere, ho ancora la mia musica che sta dalla mia parte. Dai, Maurizietto! Amore, amore, amore, amore mio! Non piagni e state zitta per staccare quello che fai, io lo dico sempre. Musica vera contro le tue emozioni finte. Wow, non è una canzone d'amore. Wow, questa non è una canzone. Wow, questa non è una canzone d'amore. Questa non è una canzone d'amore. Wow, questa non è una canzone d'amore. Wow, questa non è una canzone. Wow, questa non è una canzone d'amore. Questa non è una canzone d'amore. Wow, questa non è una canzone d'amore. Wow, questa non è una canzone. Wow, questa non è una canzone d'amore. Questa non è una canzone d'amore. Wow, wow, wow. Dai, e poi Magiello. Wow, wow. Grazie a tutti e a tutte, regà. La Furia, Radio Onda Rossa. Applauso per loro. Grazie. Oh, grazie.